lasciato le mie reti. Senza quei sogni non puoi far di più. Vedi, ha già conserto le mie mani. Tolto il veleno dai miei denti. Scavato rabbia bene polsi. Dopodiché non potrai far di più. Sciolto il dolore dei miei affreschi. Raschiato gioia ai miei graffiti. Scarificati i miei silenzi. Non credo che tu possa dirti più. Chiusi coperchi agli orologi. Non c'è altro che tu possa far di più. Già i miei occhi, strappato cuore e unghie artigli. Non c'è altro che tu possa far di più. Hai spifferato ormai i finali. Smontato luci degli sfondi. Spento paesaggi.